Credo che questo sia fondamentale ed è bello partire in questo andando un po' controcorrente, nel senso che a volte nell'ambito medico-scientifico c'è l'esperto di immunologia, l'esperto di felicità, l'esperto di gastroenterologia, come se fossero elementi staccati. Sì. Mi piace citare la Montalcini, ha preso il Nobel nell'86 per la scoperta di questa sostanza che si chiama NGF, Nerve Growth Factor, che è una sostanza che ha un'azione, guarda un po', di tipo infiammatorio, di tipo proallergizzante, interviene nelle malattie ed è profondamente correlata con gli stati d'animo. Allora, vedi che in realtà poi, pur avendo una premio Nobel assolutamente nota, famosa, importante, questi temi poi non vengono presi, non vengono suggeriti, non vengono aiutati. A me piacerebbe che il cardiologo prescrivesse la sua pillola e contemporaneamente scrivesse: compri le scarpette da ginnastica e vada a camminare, no? Certo. Vada a guardare dei film sorridenti, non vada a vedere registi tristi, no? Sì. Cioè, sono elementi importanti e ce ne sono davvero tanti di questi elementi utili. Ad esempio mi piace spesso citare Dean Ornish è il primo che è riuscito a far capire che anziché prendere le pillole per il colesterolo bastava cambiare lo stile di vita. Questo ancora 30 anni fa. Oggi è il cardiologo di Clinton, quindi è un noto, voglio dire, un personaggio importante da questo punto di vista. Lui ha iniziato a documentare che i topini che venivano operati per rimozione di forme tumorali, se venivano accarezzati un po' prima di essere operati, in realtà avevano un tasso di sopravvivenza che era enorme, rapportato alla situazione umana, significava che non sarebbero morti di cancro nella fase successiva. No? Questi sono elementi che sono forti, che ci dicono c'è questa relazione e quindi poi noi la dobbiamo trasformare nel sorriso, nella risata, nel buon umore, nel mangiare un pezzettino di cioccolato, però non di quelli zuccherati, quelli, sì, voglio dire, il nero, il noir, no? il noir vero, 75% di cacao, e quindi ci sono gli elementi che ci possono aiutare con una documentazione scientifica che ormai è parte di noi, si tratta solo di saperla leggere e interpretare giustamente.